La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Eccoci cari ascoltatori, questo venerdì pomeriggio in diretta 16:08 primi e 49 secondi, cari radio interattori, come vuole il nostro Gennaro. Mi ero impegnato per due giorni a ripetere che lui propone questa nuova formula, decidete voi. Allora, grazie all'ascolto in diretta in podcast da Oscar Giannino, vi dico subito di che cosa ci occupiamo oggi, perché sarei curioso di sapere la vostra opinione. 800 24 0024, per gli sms 349 238 6666. Diciamo che è una questione che può riguardare tutti, ma riguarda innanzitutto centinaia e centinaia di migliaia di italiani che sono separati, hanno divorziato e si sono imbattuti, o per caso stanno ora alle prese con la questione, avendo prole, dell'affidamento, soprattutto di affidamenti a fronte di un conflitto, non di un consenso, tra i due ex coniugi genitori. Perché? Vi chiedo di esprimere un'opinione su questo, in sintesi estrema, poi i particolari ve li do. La scelta del tema dipende dal fatto che abbiamo letto un articolo sul Piccolo di Trieste, la vicenda avviene a Trieste, e sulla Stampa di Torino oggi a pagina 15, una vicenda che riguarda proprio la decisione del giudice su una contesa rispetto a un minore di almeno 7 anni tra due genitori in lotta da anni, e il titolo dell'articolo della Stampa dà il senso su cui della decisione assunta, su cui vi chiedo un'opinione. Perché il titolo della Stampa recita: voglio restare con papà, tra virgolette, come se fosse il minore appunto a esprimersi, e il titolo prosegue dicendo: il tribunale si adegua alla scelta del bimbo conteso, il perito a 7 anni ha dimostrato capacità di discernimento. Ecco la questione sulla quale chiedo la vostra opinione, e a maggior ragione se siete, per così dire, con conflittualità aperte con l'altro genitore, è: che cosa pensate di un rilievo maggiore dato nella procedura di delibazione, cioè di giudizio del diversi fattori in base ai quali il giudice deve assumere la decisione, dell'opinione del minore? C'è un'infinità di questioni che si raccolgono in questa scelta. Innanzitutto ricordiamo che non si tratta di qualche cosa che non faccia parte, per così dire, già dei criteri attraverso i quali si arriva alla scelta, per così dire. Cosa diversa è assumere un valore, per così dire, decisivo a un'opinione e a come si raccoglie questa opinione, visto che stiamo parlando di bimbi piccoli, nel senso che è vero che la convenzione dell'AIA sui minori sottolinea che bisogna tenere nel giusto e nel massimo rilievo la condizione appunto dei minori, cioè la parte debole del conflitto. Molti di voi immagino abbia avuto esperienza di un conflitto tra genitori in cui uno degli argomenti portato anche di fronte al giudice nel conflitto sulla richiesta di affidamento è proprio: mi mette contro i figli, perché a giudicare dall'infinita pila di lettere che noi abbiamo nella nostra cartella quando parliamo di questioni che hanno a che vedere con separazione e divorzi, questo è uno degli argomenti più ricorrenti. Ecco, a maggior ragione però, a me sembra una decisione di grande civiltà, ma non mi nascondo che non vada affatto preso per scontato che ai protagonisti delle vicende, cioè dei genitori, appaia come un criterio di cui riescano a convincersi. Ecco, io mi limito a dire questo. Perché voglio innanzitutto che ascoltiate più in dettaglio il parere di una delle parti, per così dire, e di chi come avvocato la rappresenta, perché in questa vicenda di cui non ci devono interessare i particolari privati, i nomi, i cognomi del bimbo e così via, la vicenda è più o meno in sintesi quella che vi ho ricordato, ed è con noi appunto uno dei due difensori del padre che in Italia ha avuto quindi la decisione a favore per il minore, tenuto conto che ciò che qui ci preme sottolineare, che vogliamo approfondire, è ma quanto e come è stata assunta questa opinione del minore per la decisione da parte del giudice. Ecco, avvocato Paolo Gippone, grazie di essere con noi oggi pomeriggio. Buonasera. Allora, spieghi a chi è in ascolto e che non è esperto naturalmente di procedura eccetera eccetera, se davvero è una grande novità o se invece questo elemento, pur raccolto in presenza di figli di una certa età eccetera eccetera, la novità è che sia decisivo piuttosto che abitualmente raccolto e non decisivo. Cioè, qual è davvero il punto di questa decisione a Trieste? Intanto vorrei fare una premessa, cioè che la decisione del Tribunale dei Minori di Trieste non si basa solo ed esclusivamente su quella che è stata la valutazione del desiderata del bimbo, ma pone un altro motivo ostativo al rientro che, sulla base dell'articolo 13b della Convenzione, è quello del rischio di essere esposto a un pericolo di natura psichica nel caso in cui ne fosse stato ordinato appunto il rientro in Perù. Questo sulla base. La mamma sta in Perù, appunto. Sì, sulla base di una constatazione di una certa poca chiarezza della legislazione peruviana ai fini di garantire la bigenitorialità e quindi anche il diritto del padre, laddove il bambino fosse stato rimpatriato, a poter continuare a frequentarlo e avere un rapporto con il medesimo. Quindi la decisione non si fonda solo esclusivamente su quelle che sono state le volontà espresse dal minore. Però, come salvaguardia della tutela del minore, in ottemperanza anche a sentenza di Cassazione del 2017, l'assunzione dell'opinione del minore è stato un elemento forte. Sì, diciamo che comunque il nostro ordinamento già conosce l'audizione del minore, ritenendo che un minore sia sostanzialmente una parte autonoma e diversa rispetto ai contendenti genitori, cioè ha una propria individualità e come tale deve essere preso in considerazione. Il nostro codice civile prevede anche in sede di separazione, attraverso una riforma che è stata introdotta con una legge del 2012, che tutti i minori di età superiore a 12 anni o comunque anche di età inferiore che si ritrovano sostanzialmente in una contesa familiare, in quel caso di separazione, debbano essere sentiti. E il discrimine rimane comunque quello che è la capacità di discernimento del minore stesso nel momento in cui manifesta le proprie vocazioni, le proprie aspirazioni. L'unico limite che c'è sia negli articoli della Convenzione dell'AIA, che è quella che regola precisamente i problemi di restituzione dei minori in un paese e a un genitore straniero, sostanzialmente prevedono che l'unico limite sia quello che l'ascolto del minore possa essere generatore di danno a sua volta e che quindi debba essere escluso per preservarlo da ulteriori problemi oltre a quelli sostanzialmente di essere conteso tra i genitori. Senta, faccio una domanda che però sarà l'inizio anche della domanda che faccio al secondo ospite, ma con un bambino di 7 anni che ha vissuto il conflitto molto forte tra i due genitori che stanno addirittura in due continenti diversi, l'assunzione di questa volontà attraverso quali delicati meccanismi, perché non credo che gli si possa chiedere con chi preferisci stare, no? Sì, tant'è che il Tribunale di Trieste, tra l'altro aderendo a una tesi che la Corte di Cassazione italiana aveva già espresso in altre decisioni, ha ritenuto che l'audizione del minore dovesse essere fatta in modo mediato e in questo caso ha optato per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, demandandola a uno psicologo. A uno psicologo che ha valutato. Ma scusi, ripeto, a noi di solito risulta che uno dei motivi più aspri del contenzioso tra genitori separati e divorziati sulla prova è proprio l'accusa "me lo mette contro". Come si fa nella valutazione, in questo caso da parte di un perito psicologo a cui è affidata la valutazione della volontà del minore da tutelare ai sensi della Convenzione dell'AIA, come si fa ad avere il filtro necessario per abbattere il rischio che l'opinione espressa dal minore esprima a propria volta un'azione precedente esercitata nel tempo da uno dei due coniugi nei confronti dell'altro genitore? Ma nel caso specifico, cioè, quello di cui stiamo parlando, questo sorto di filtro secondo me è stato posto in essere coinvolgendo anche gli stessi genitori nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio, nel senso che lo psicologo non si è limitato a esaminare il bambino, ma ha preceduto a questo esame e alla somministrazione di test psicologici dei colloqui con i genitori stessi. In altre parole, si è fatto sostanzialmente un'idea del fatto che il minore fosse soggetto ai cosiddetti PAS, che sarebbero praticamente quelle sindrome generate dal comportamento di un genitore vocate praticamente a rendergli insopportabile l'altro. Affascinante. Io in questo momento parlo da giornalista incuriosito, ma parlo anche da padre, perché io ammetto tutti i miei difetti e ho imparato che è meglio così nella vita piuttosto che tentare di nasconderli per una bella botta che mi sono meritato. E uno dei miei pensieri ricorrenti di fronte ai miei figli piccoli, di cui parlo con la madre che mi guarda un po' storto, ma ha ragione lei, è proprio quello di dire ma non ce li metteremo mai contro. Cioè io ci convivo con questo, devo dire la verità, a furia di averlo letto negli anni da parte dei nostri ascoltatori che raccontavano le loro traversie. Carlo Rimini è con noi anche, avvocato, docente di diritto privato all'Università di Milano, e riparto con il professor Rimini da questa stessa domanda. Abbiamo davvero gli strumenti tecnici così perfezionati da farci dire che, sia pur da parte di un perito specializzato, l'assunzione delle espressioni di volontà di un minore di 7 anni può essere assunta come una delle determinanti, dei discrimini decisivi per la decisione da parte poi del giudice dei minori? No, non credo, ma non credo che sia neppure questo quello che il giudice va a cercare e il consulente tecnico nominato dal giudice va a cercare in caso. Cioè io credo che il minore viene sentito o direttamente dal giudice, come dovrebbe sempre avvenire se il minore ha più di 12 anni, oppure come è auspicabile che avvenga, e infatti in questo caso è avvenuto, da un consulente tecnico, cioè da uno psicologo, che fa un'indagine più ampia, non si limita a parlare con il minore e ad acquisire la sua volontà. Anzi, probabilmente la volontà non la va neppure. Non la va, cercare, ecco, non gliela chiedono così, certo. Non gliela chiedono e non vanno neanche a ricostruirla non chiedendogliela, come dire. Il consulente del giudice va a fare un'indagine sulla situazione del nucleo familiare nel suo complesso. Ovviamente cerca di capire qual è la relazione che ha il minore con ciascuno dei genitori, cerca anche di capire qual è la relazione che ha il minore con ciascuno dei luoghi in cui si discute se il minore debba vivere. Quindi nel caso in esame si tratterà di capire quanto il bambino era legato alla città in cui il padre l'aveva portato a vivere, quanto invece poteva essere legato alla madre e al contesto di vita della madre. Il consulente tecnico parla quindi con il bambino, parla con tutte le persone che sono vicine al bambino per farsi un'idea e per dare la risposta tecnica a un quesito che è giuridico ma che è ovviamente drammaticamente umano. Dietro a queste vicende spesso ci sono problemi giganteschi che il giudice deve affrontare. Il primo problema gigantesco è la soluzione di un conflitto di interessi evidente, perché c'è l'interesse del genitore che vive nel luogo in cui il bambino è sempre vissuto a continuare a vivere con lui, e l'interesse di un altro genitore che evidentemente, come in questo caso, vive a decine di migliaia di chilometri di distanza, di portarsi il bambino nel luogo che lui ritiene più opportuno per la crescita serena di questo bambino. Quindi sono interessi, come dire, inconciliabili, rispetto ai quali però una risposta deve essere data, e deve essere data con gli strumenti che si hanno a disposizione. Sicuramente con un bambino di 7 anni la pura, fredda, asettica volontà del bambino è l'ultimo dei criteri considerati. Aspetti, adesso io ho un'altra questione che ha a che vedere con lo specifico della vicenda, i nostri ascoltatori non la ricordano, e faccio la stessa domanda prima all'avvocato Gippone e poi al professor Rimini. Uno degli aspetti di questa vicenda è che i due coniugi di cui si parla, i due genitori, se lo sono contesi, ognuno dei due andando nel paese dell'altro e portandolo nel proprio, con modalità che sono quelle a cui si ricorre quando c'è uno scontro totale, per così dire, no? Non attraverso cose illegali, perché il passaporto del minore lo permetteva, ma insomma in maniera molto conflittuale. Io, a dire la verità, leggendo e rileggendo e sempre proiettando, sbagliando su di me questa questione, non lo so, avesse avuto 6 anni o 5 anni e 4 anni nel mentre si determinavano queste specie di, tra virgolette, rapimenti legittimi da una parte all'altra del mondo, credo che ne sarei stato molto segnato. Non so quanto avrei potuto essere in grado di esprimere un'opinione su, mi avessero semplicemente chiesto dove vuoi vivere meglio, perché sarei stato, penso, energicamente influenzato nella mia valutazione, non solo dai diversi modi relazionali di padre e madre nei miei confronti, ma proprio da queste modalità, perché sono modalità anomali del tutto, no? Quindi hanno, immagino, una forte influenza, almeno per me, io la immaginerei se ricordo com'ero quando ero piccolo. Allora, avvocato Gippone, questo elemento di cui parlo ha un peso, secondo lei, nella vicenda, o sbaglio io a immaginarlo? Ma guardi, questa vicenda inizia nel 2011, quando il bambino, su accordo del padre e della madre, si reca in Perù per un periodo di vacanza, nel senso che così era stato concordato anche per iscritto fra le parti, di circa 3 mesi. E stiamo parlando di un bimbo di 6 mesi. Allo scadere dei 3 mesi la madre rifiuta la restituzione del bambino, o comunque il suo rientro in Italia, dal momento che ritiene di volersi stabilire in Perù, e diciamo oppone questa sua posizione al padre. Padre che, come lei diceva, ha assunto delle iniziative in Perù, sempre sulla base della stessa convenzione dell'AIA, invocata poi dalla madre e dalla quale sovviene la decisione di cui stiamo parlando, sì. E si vede dare ragione in primo grado dai tribunali peruviani, cioè per una restituzione. Nel contempo aveva iniziato un procedimento in Italia, diciamo depotestate, cioè per vedersi attribuire la potestà del minore in via esclusiva e in virtù, diciamo, dei comportamenti materni. Ottiene un provvedimento italiano sulla base della prima decisione peruviana di rientro, in cui gli viene attribuito l'affidamento esclusivo. In secondo grado la Corte d'Appello peruviana cambia posizione, cambia, e decide che sostanzialmente il bambino, nel momento in cui fosse tornato in Italia, era sottoposto a un pericolo di natura psichica, fisica, di cui al famoso articolo 13b della convenzione. Della convenzione dell'AIA. E il padre lo riporta in Italia e ovviamente subisce, fra virgolette, lo stesso tipo di iniziativa giudiziaria che lui aveva svolto in Perù, e quindi si innesta il procedimento di restituzione intentato dalla madre. E stiamo parlando di un bimbo, appunto, che a 6 mesi viene portato in Perù senza fare ritorno in Italia, e che nel 2013, a 4 anni e mezzo, viene riportato in Italia. Nel 2014 appunto inizia la procedura di restituzione iniziata dalla madre, che si conclude fra virgolette, perché comunque questo provvedimento è ricorribile in Cassazione, con la decisione del Tribunale di Trieste. Però allo stato attuale, il giudizio in appello della Corte del giudice peruviano, mutato rispetto a quello che in primo grado aveva riconosciuto la fondatezza delle richieste del padre, confligge con la decisione assunta dal Tribunale dei Minori di Trieste, perché applicano lo stesso rischio di esposizione a rischi, danni psicologici e psichici, che è ciò per cui si può agire in base alla Convenzione dell'AIA. Il giudice d'appello del Perù lo applica al caso in cui il bambino stia in Italia, il Tribunale dei Minori di Trieste lo applica al caso in cui torni in Perù. È così o no? Sì, anche perché la sola condizione che consente sostanzialmente a uno Stato richiesto, viene inteso così lo Stato a cui viene richiesta la restituzione di un minore, dallo Stato richiedente, che è quello dove è stata iniziata la procedura di natura convenzionale, entrambi sostanzialmente hanno riconosciuto che c'è stata sottrazione internazionale. Cioè... Lo so, però allora scusi, professor Rimini, come vede adesso a chi ascolta, non è molto chiaro, cioè si tratti di una decisione da considerarsi risolta, visto che siamo in presenza di decisioni contrapposte sulla stessa valutazione di rischio analogo, e decisioni totalmente contrapposte, due corti di stati diversi. Dove sbaglio, professor Rimini? No, lei, come spesso le capita, ha messo il dito nella piaga, nel senso che qui questa vicenda concreta, da quello che si può capire da esterno, non la conosce, questa vicenda, il tema volontà del bambino, non c'entra nulla, non è questo il problema. È la solita colpa dei giornalisti, ma lo dico prendendomela, non per polemica. No, ma lei l'ha capito, nel senso che il vero problema qui è un altro. Il vero problema è che esiste una regola internazionale seguita dalla Convenzione sulla protezione dei minori, e alla quale la Convenzione sulla sottrazione internazionale dei minori si rifà, che è molto semplice. La competenza è del giudice del luogo in cui il bambino ha la residenza abituale, e quindi è quel giudice che deve decidere, regola 1. Regola 2, non sono tollerati e ammessi blitz, nel senso che se un genitore prende un bambino e lo sposta in un altro stato, il giudice dello stato dove il bambino è stato portato per prima cosa deve, senza guardare il merito della vicenda, senza studiare nulla, prendere il bambino e rispedirlo indietro. Questa è la regola. Purtroppo questa regola ha una eccezione, che è questa clausola di salvaguardia che gli stati, specificando la convenzione, hanno preteso venisse inserita, e cioè che il giudice, prima di prendere il bambino e rispedirlo indietro, deve valutare se per caso questo non esponga il bambino ad un grave e irriparabile danno. Qual è il problema? Che alcuni giudici, io mi auguro che l'Italia, nonostante questa vicenda, non sia fra questi, ma può essere che in questa vicenda al suo inizio il Perù sia stato fra questi stati, alcuni stati interpretano questa eccezione come un piccolo foro nel sistema da cui si può far crollare la diga, e quindi rifiutano di restituire i bambini. A questo punto la regola per cui i blitz non sono ammessi crolla assieme alla diga, e quindi che cosa succede? Succede il gioco delle rappresaglie reciproche. Tu sei venuta a Trieste, mi hai portato via bambino, me l'hai portato al Perù. Il Perù, dico il Perù, ma può essere Timbuktu, può essere qualunque cosa, prendiamo questo come caso da cui partire. Il Perù prima decide di rimandare indietro il bambino, poi la Corte d'Appello si pente, eccetera eccetera. Io che cosa faccio a questo punto? Mi viene naturale, prendo il bambino e faccio un altro blitz e lo riporto a Trieste. A quel punto la Corte d'Appello di Trieste e il Tribunale per i Minorenni di Trieste che fa? Ecco, in teoria dovrebbe applicare la legge, esatto. E quindi, perché ai blitz non si reagisce con blitz, dovrebbe applicare la legge e dire qual è il grave e irreparabile danno che subisce il bambino. Tu comunque hai fatto un blitz, è un fallo di reazione, ma è comunque un fallo, rispedisco il bambino indietro. È già, si dirà, ma che garanzie mi dà uno Stato che alla partita precedente ha in qualche modo violato la Convenzione? Questo è il vero nocciolo. Allora, io devo dire, la ringrazio perché l'ha espresso in maniera molto chiara. Temevo di aver capito e mi conferma che forse non avevo capito male. Qui c'è sì il peso della volontà vagliata con il giusto filtro di mediazione da parte del perito tecnico perché il Tribunale dei Minori prenda la decisione giusta. Però attenzione, questa è una vicenda che ci dice che bisogna stare molto attenti a quello che gli ordinamenti davvero prevedono in questa materia. Ecco, quindi bisogna avere un'attenzione particolare, lo dico in questo caso nell'interesse della tutela delle parti deboli, cioè dei figli, però bisogna averla, perché questo, come vedete, è un conflitto aperto, non è ancora un conflitto pacificamente che si possa considerare risolto. Intanto grazie ai nostri ospiti, adesso andiamo alla borsa, pubblicità e poi torniamo con le vostre telefonate. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta allo studio 16:40 e 51 secondi. E abbiamo parlato insieme all'avvocato Paolo Gippone, che ha sentito il padre, fuori del quale si è pronunciato il Tribunale dei Minori di Trieste, sentita anche l'opinione del bimbo conteso di 7 anni, e il professor Carlo Rimini, con il quale abbiamo approfondito il fatto che sì, è molto importante valutare l'opinione del minore e la sua predilezione per dove vivere, però insomma la verità è che noi abbiamo ancora a che fare con ordinamenti nazionali in lotta l'un con l'altro, e questo non ci può dare la garanzia vera ancora che davvero poi l'interesse del minore sia anteposto di fronte a qualunque altro interesse. Sentiamo come la pensano alcuni di voi di fronte a questa vicenda. Cominciamo con Gianluca, che ci chiama dalla provincia di Padova. Gianluca. Buongiorno Oscar. Buongiorno. E un buongiorno ai suoi ospiti. Eccoci. Io sto vivendo una situazione molto simile a questa. Una separazione un po', diciamo così, un po' burrascosa, e ho due bimbi, io li chiamo ancora bimbi, ma uno ha 17 anni e uno ne ha 11, e quindi il giudice ha voluto interpellare una CTU, per cui sono stati fatti incontri con noi, con i bimbi, con i nonni, ha voluto vedere dove abitano i bimbi, un sacco di cose. Ed il più grande ha espresso il desiderio di venire con me, il giudice ha accettato, per cui è andato tutto bene. Il piccolo, adesso vedremo un po' come andrà. Subito aveva espresso la volontà di stare inizialmente con la mamma, però probabilmente le cose stanno cambiando, per cui adesso si avvicinerà anche lui pian piano verso i 12 anni, per cui poi verrà ripreso in mano tutto il discorso. Nella sua esperienza, il procedimento attraverso il quale avviene l'espressione da parte dei suoi figli e la ricezione da parte del tecnico, da parte del giudice, la rende sufficientemente convinto che si tratti di un procedimento con i giusti filtri, o c'è il rischio che l'opinione dei ragazzi sia molto pesantemente influenzata dalla burrasca? Secondo me l'influenza e le cose che dicono i bimbi dipende molto dal livello di lotta poi che c'è. E anche la situazione, siccome è rare umano, dipende sempre molto da che tipo di dalla persona che rappresenta la CTU ti trovi davanti, per cui bisognerebbe avere delle persone estremamente obiettive quando si affrontano queste situazioni un po' delicate e conflittuali così. Ci sono delle persone assolutamente adeguate, delle persone probabilmente che, non so, io dico sempre sono braccia rubate alla siderurgia, nel senso che non è molto soggettiva la cosa. È molto soggettiva, questo è il punto. Tenga conto, la persona giusta. che tenga conto che, come sempre, allora intanto ringrazio Gianluca per la sua testimonianza, tenga conto, tenete conto tutti che, come sempre, la stragrande maggioranza degli sms che ricevo dagli uomini in ascolto è che sono troppo tutelate le ragioni delle madri nell'affidamento, ma questo storicamente so che è il trend quando si tocca questo punto, che è un trend che ha avuto per molti anni un fondamento realistissimo, cioè verissimo, voglio dire, nelle pronunce dei giudici, poi in via di equilibrio. Abbiamo più volte parlato dell'affido condiviso e di che cosa questo significa. Sentiamo ancora l'opinione di Fabrizio da Genova. Fabrizio. Buonasera Oscar. Buonasera. Ma guardi, al di là di quella che è stata la mia situazione, mia figlia ha compiuto 18 anni a giugno, quindi ormai è maggiorenne, sì, di conseguenza nulla posso più fare per eventualmente, certo, recuperare il rapporto con lei. Quello che io penso è che si faccia un uso dell'ascolto del minore errato. Sono minori, cioè portare dei bambini, perché poi alla fine sono bambini, sì, 10 anni, 11 anni. Nel caso di Trieste 7 anni addirittura. Esatto, in questo caso esatto, mia figlia ne aveva 10. Solo ed esclusivamente per domandare poi alla fine se vuoi stare con mamma, se vuoi stare con papà. Cioè queste sono decisioni che dovrebbero prendere gli adulti senza interpellare il minore. Intendo dire che quando due persone si separano due adulti, con un genitore, con un figlio o viceversa. Quindi bisognerebbe sì ascoltare il minore, per carità, un padre o una madre chiede al figlio se vuole la bicicletta, come vuole essere, se vuole andare in vacanza, però poi se il bambino gli dice sì voglio il motorino non glielo compri magari, no, perché no, capisci, cioè, che può essere pericoloso. Quindi ecco, Fabrizio, io lo ringrazio perché sta dando voce a moltissimi che dicono ma i fattori di influenza delle opinioni espresse da un bambino di 7 anni sono insondabilmente complessi e variegati, e effettivamente anch'io un po' la penso così. Se mi ricordo come ero io, certo non avrei potuto esprimere giudizi davvero fondati su una stima della mia percepita tutela maggiore, cioè, scusate ma ve lo dico esattamente così. E quindi grazie anche a Fabrizio per averci chiamato. Adesso noi abbiamo le informazioni sulle strade e chiuderemo con un altro caso delicato di cui si parla molto, uno stalker che per la prima volta insomma viene ammesso a questo canale della giustizia riparativa, chiamiamolo così, per estinguere il reato con una riparazione. Offre 1.500 euro, la vittima le rifiuta, il giudice può comunque valutare la congruità dell'offerta e il giudice dice va bene, la vittima dice di no ma io la giudico congrua e quindi lì finisce. Giusto oppure no secondo voi? Intanto strade. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta... La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta in questi ultimi minuti nel venerdì pomeriggio e il caso è questo. Torino, uno dei primi casi di applicazione di questo istituto nuovo della giustizia riparativa, vi ricordate ne abbiamo parlato qualche tempo fa quando era ancora all'esame delle Camere, lo si stava varando. E cosa è successo? Il Tribunale di Torino si è trovato di fronte a il caso di un uomo che aveva stalkerato una donna, l'aveva per un certo periodo di tempo nella periferia di Torino e anche oltre, aveva iniziato a seguirlo, a seguirla sistematicamente in auto nei suoi percorsi, a farsi trovare quindi di fronte a lei, insomma una delle classiche condotte attraverso cui si manifesta lo stalking, senza mai arrivare a violenza personale dirette, ma lo sapete, queste sono le modalità attraverso le quali chi pone in essere queste condotte ha come obiettivo quello di piegare la volontà attraverso un'impropria invasione nella sua sfera di privacy ai propri disegni, di qualunque tipo essi siano. Ecco, questa era la cosa che aveva spinto la donna a denunciarlo per atti persecutori. Era una ragazza di 24 anni, perché gli atti persecutori si erano protratti per un periodo lungo dovunque lei andasse, quindi una vera e propria persecuzione. Rito abbreviato, e l'imputato e i suoi avvocati chiedono appunto di percorrere la nuova via della giustizia riparatoria, e offrono 1500 euro come risarcimento del danno alla ragazza. La ragazza rifiuta, e a quel punto il giudice dell'udienza preliminare del rito abbreviato, nella piena facoltà concessa dalla legge, però giudica che questa offerta, sia pur rifiutata dalla vittima, è un'offerta da considerare congrua, e quindi comunque dispone il deposito della somma su un libretto intestato alla donna, anche se la donna l'ha rifiutata, e a quel punto però naturalmente dichiara estinto il reato attraverso la via della condotta riparatoria. La domanda diventa: chi aveva dei dubbi su questo canale della giustizia riparatoria, che sono proposti attraverso il fatto che viene applicata a un reato particolarmente odioso, ammettiamolo, come quello dello stalkeraggio, forse aveva ragione oppure no? Ecco, questa è la domanda, perché dalla pubblicazione degli articoli sul giornale Oggi, se andate a controllare, ci sono centinaia di interventi tra chi dice non è giusto, è assolutamente intollerabile, c'è chi entra nel merito della valutazione della cifra, ma la questione è comunque che, attenzione, perché il segnale potrebbe essere agli stalker dire vabbè, me la cavo con poco, e quindi viene meno anche l'effetto deterrente. Allora, la domanda che noi facciamo, e la ringraziamo di essere stata disponibile per rispondere a questa domanda, è a Fabrizia Giuliani, deputato del PD, membro della Commissione Giustizia, che ha lavorato anche, quindi conosce bene questa norma. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, onorevole Giuliani. Buon pomeriggio a voi, a tutti. Lei che dice? Dico che questa sentenza è profondamente sbagliata, e che mi auguro davvero che sia un unicum, e che si riesca al più presto a provvedere a correggere questa norma, perché se può dar adito a sentenze di questo tipo, il rischio non va in nessun modo corto. Ma io sono contento di sentire, perché anche secondo me il segnale che arriva è tanto ci voleva per sapere che non rischio niente. Mi scusi, ma No, ma si figuri, io sono perfettamente d'accordo con lei. Purtroppo mi trovo anche a tirare, come dire, una linea dritta tra quanto è accaduto con questa sentenza e quanto purtroppo troppo spesso ci troviamo a constatare, rispetto a sentenze che in casi di stalking, abusi, maltrattamenti, violenza contro le donne, eccetera, presentano la costante di rendere sotto gamba, sottovalutare, depotenziare, banalizzare questi episodi. Ecco, questo davvero non è accettabile, perché noi, vede, abbiamo fatto tanto, e quando dico noi parlo certamente dell'impegno che abbiamo messo in questa legislatura rispetto alle misure di contrasto alla violenza di genere. Ricordo la 119, il codice rosa, questa nuova norma che adesso speriamo venga varata presto a proposito degli orfani di femminicidio. Sì. Però riconosco assolutamente quanto hanno fatto anche tante donne, ma anche tanti uomini di altra parte politica, perché su queste misure dovremmo agire sempre insieme, non si dovrebbe, certo, lasciarsi andare a come dire, la tentazione, no, di lucrare qualche voto, appartenenti di partito o altro. Almeno io proprio rifiuto questa logica, perché è talmente difficile da raddrizzare una cultura che ancora attraversa purtroppo il nostro senso comune, anche le istituzioni, non ne sono immuni, non ne sono immuni le forze dell'ordine, non è immune la magistratura, non ne sono immuni nemmeno il personale sanitario, per cui in fondo un certo tipo di violenza è una cosa privata, è in qualche modo qualcosa che appunto può perfino essere risarcito con una così, con una somma di denaro, ecco. Allora, e voglio aggiungere però anche un'altra cosa, certo, rispetto dica, a questa sentenza, dica. Perché diciamo, volevo farle una serie di considerazioni generali, ma poi ce ne sono alcune più specifiche. Allora, mi risulta da quanto sto apprendendo che quest'uomo fosse sottoposto ad una, come diceva anche lei prima, a misure cautelari. Ecco, allora, in questo caso mi chiedo come mai questo aspetto sia stato sottovalutato. Ma... Due, per quale ragione non è stata sentita la parte offesa? Perché, voglio ricordare questo. Posso aggiungere una cosa, perché in realtà il tempo è andato via. Io mi sono chiesto, leggendo all'inizio la notizia la prima volta, ma chi è un uomo che ha deciso così? E invece no, il gruppo è una donna. Non vuol dire niente.